poi quando vengono compiute delle nefandezze, delle cose davvero indecenti, anche la stessa donna torna al centro del giudizio dell'opinione pubblica. Per fare un esempio, quello che è avvenuto a Guantanamo con la donna che è stata raffigurata come torturatrice, la soldatessa, o ad esempio la soldatessa israeliana che ha messo su Facebook le sue foto mentre tortura i prigionieri palestinesi. In quel caso quegli episodi raggiungono l'apice dello scalpore, proprio perché alla figura della donna viene associata sicuramente quasi una cosa come la pace, mentre alla figura dell'uomo la guerra. E quindi secondo me ritornano in più occasioni i modelli che ci vengono imposti. Certo, e poi l'ipocrisia dietro questi modelli, perché appunto il concepire la donna in armi da parte del sistema è appunto una donna integrata dentro un esercito che poi appunto si ammanta di fare pure opere umanitarie in giro per il mondo, e sappiamo benissimo che non è così. E però quando la donna si autodetermina e quindi decide da sola quale livello diciamo di azione intraprendere, o di resistenza o di reazione al contesto in cui vive, allora in quel caso chiaramente dipinta. Cosa che ovviamente non può capitare per le donne soldato, perché no, ovviamente appunto seguono testa c'è bassa, poco da autodeterminare, no, è chiaro, anzi rientrano pienamente in quello che è l'esercito e fanno le stesse cose dei militari, insomma. Infatti io ieri, provando a ragionare su questo spazio, giocavo un pochino su delle parole. Avevo provato a prendere la parola fatica, quella di dolore e quella di rabbia, e a vedere come per le donne questi termini assumono tutto un altro significato. Ovvero la fatica diventa sofferenza, quindi sicuramente in posizione negativa e vittimistica, come il dolore diventa debolezza, e come la rabbia diventa isterismo. E quindi vedere come anche il concetto di reagire nell'uomo viene sempre considerato come un qualcosa di razionale, nel giusto o nello sbagliato, mentre nei confronti della donna viene presa come una cosa totalmente irrazionale, e sicuramente risponde a dei modelli che provengono dalla storia. Perché la storia ovviamente nasconde tutte le brutalità nei confronti delle donne, e nasconde tutta la violenza che viene anche costruita sul corpo delle donne. E quindi immaginare una reazione a un qualcosa che non viene raccontato nel presente non può acquisire alcun significato, cioè, quindi viene attribuito all'isterismo, a una reazione quasi involontaria, inconsapevole, incosciente. Sì, anche perché alle donne non viene proprio dato la possibilità di essere esseri razionali e pensanti, no? Le donne sono emozioni, ovvero sono solo corpo, e infatti così vengono sempre dipinte, rappresentate dai mass media, sia nelle pubblicità, ma così anche per esempio negli articoli che abbiamo visto uscire sulle donne attive nella Valsusa. Sono madri, si occupano dei bambini, portano i giochi, organizzano l'asilo, fanno il tè, sono timide, cioè non hanno diritto allo status di compagne, di donne che difendono le loro idee, il loro territorio, quello che pensano, quello che vogliono. Totalmente depoliticizzate, tolte di qualsiasi partecipazione politica intelligente. Eh sì, e poi l'ossessione del controllo sulle donne è veramente particolare, questo bisogno di mettere, comunque anche quando vai fuori dagli schemi, di metterti una etichetta abbastanza evidente, insomma, nella stampa mainstream ovviamente, con cui ai noi insomma ci confrontiamo. Io vi inviterei a ritornare alle varie forme di violenza di cui vi volevamo parlare, no? Nel senso, ne abbiamo identificate finora due: la violenza degli uomini sulle donne e la violenza delle istituzioni sulle donne e sugli uomini. Ci stai dicendo che siamo partite per la tangente? Un pochino. Torniamo. Vabbè, facciamo a noi. Come ci pare. Il resto, vedi, subito a incasellare. No, perché è funzionale il nostro discorso invece parlare sì, certo. della violenza e della, che abbiamo scelto di chiamare, brutalità della polizia, no? Sì, appunto. Torniamo cioè, a parlare in che termini? Cioè, accennami. Nel senso che abbiamo voluto, diciamo, almeno quando abbiamo ragionato su questa trasmissione, scegliere accostare alla violenza della polizia proprio la parola brutalità, cioè l'esercizio imposto dall'alto del potere da una parte e la cieca obbedienza dall'altra. Anche questa è una forma di violenza molto forte cui assistiamo in vari modi differenti e in cui in Val di Susa le donne e gli uomini hanno assistito in modo molto, molto chiaro, molto pesante, molto offensivo sui loro corpi. Sì, diciamo che avevamo scelto appunto di accostare questo termine della brutalità poliziesca proprio anche per riappropriarci del senso dell'autodeterminazione, ovvero a questa brutalità abbiamo scelto in maniera cosciente e dico ognuna, cioè non faccio l'esempio soltanto della Val di Susa, di non rimanere immobili, certo, inermi a subire ed è proprio qui che nasce il problema dell'etichetta delle violente, di come viene gestito questo in termini di media, di regime, di repressione. Perché le donne, nel caso di risposta alla brutalità poliziesca, vengono dipinte come non in grado di reagire con i corpi e soltanto estremamente intelligenti da pilotare nuclei di guerriglieri, come nel caso del 15 ottobre, di cui appunto le donne, le compagne sono state dipinte come intelligenze collettive, però talmente malefiche da poter pilotare la rabbia di meri esecutori perché forzuti. O come è stato costruito anche per nel processo contro le compagne e i compagni di Fuori Luogo di Bologna, in cui il ruolo delle donne appunto erano quello di meggere, capaci di strumentalizzare e manipolare i giovani compagni. Come le cortigiane, insomma, storicamente, che influenzavano la corte del re, ecco, siamo rimasti a quell'immaginario. E quindi anche qui, togliendo il principio di autodeterminazione, ma a chiunque, perché se tra compagni e compagni c'è qualcuno che è in grado di manipolare una persona, significa che si perde il principio per il quale una persona sceglie di scendere in piazza e di manifestare. Però a parte questa banalità, nel caso invece di violenza che per esempio viene raccontata della resistenza valsusina, un qualcosa che esce fuori è come la brutalità poliziesca, che non viene assolutamente raccontata, perché non è che viene raccontato perché una donna reagisce a delle cariche o perché una donna reagisce al fatto che il proprio vicino di casa gli è stato sparato un lacrimogeno in faccia, ha perso un occhio. Non è che viene raccontato la motivazione, ma viene semplicemente fotografata. Fotografata poi magari nel principio di auto-organizzazione in generale, quindi ora che serve, la donna valsusina è una donna che foraggia i momenti di lotta, ma che non vi partecipa direttamente e che in questa fase del conflitto lascerebbe spazio a violente di altri mondi. E diciamo che anche in questo caso viene raccontata in una maniera totalmente distorta quella che invece è la realtà dei fatti. Infatti c'è qualcuno che intelligentemente ha anche detto: andate a conoscere le persone in Val di Susa, andate a sentire le parole che vengono dette in assemblea, andate a vedere anche come la stanchezza di alcune compagne e compagni dei centri sociali poi venga invece rinforzata da quella che è la rabbia per una brutalità davvero, davvero enorme, che non solo appunto si realizza con le cariche della polizia, non solo si realizza con il ferimento di Luca, ma anche con la devastazione e il saccheggio della terra. Il concetto di devastazione a saccheggio, ribaltiamolo un po', insomma. ribaltiamolo un pochino. Sì, è come è probabilmente difficile pensare o pretendere, ecco, tenerezza, gentilezza e angelicità, non so come dire, di fronte a un'occupazione militare, ma questo forse poi collegandoci anche direttamente con le compagne della Valsusa, della Notav, che tra l'altro, lo ricordiamo, questa mattina facevano una iniziativa come donne su In Valle, appunto, poi magari con loro articoliamo un pochino la riflessione proprio su questo. E l'altra cosa, e poi anche su questo forse ci torniamo, è l'aspetto che ha, un'altra cosa che i media, diciamo, hanno messo come grande sorpresone dell'ultima ora, è la partecipazione di altre donne dal resto d'Italia a questi movimenti. E questa solidarietà evidentemente fa paura, e nell'articolo ormai famigerato, che però è ignobile ma ci offre spunti per articolare meglio la riflessione, appunto, tra le altre, in questo articolo su Io Donna che è uscito, si faceva proprio un uomo faceva una riflessione su le donne in testa appunto ai cortei della Val di Susa, e dice: ormai non sono neanche più valsusine, le senti parlare napoletano, romano, eccetera. E appunto evidentemente c'è solidarietà intorno a queste donne e tra donne. Questa è un'arma che noi abbiamo, per dire. Sì, e poi dicono bene le sui generis. Devo dire che le compagne di Torino hanno scritto vari comunicati e lettere di risposta, tutte molto belle, tutte con spunti interessanti. Le sui generis rispondono: chi pagherà la TAV? Tutte e tutti è la risposta, e quindi è normale che ci siano anche compagne che parlano dialetti differenti da quello piemontese in piazza, molto semplicemente. Molto semplicemente, è logica. E poi c'è un altro aspetto rispetto appunto alla figura della donna, che forse la donna pacifica, valsusina, siamo arrivate forse a vederla raffigurata come la donna che appunto viene schiacciata da un mezzo militare mentre attraversa la strada. Forse è l'unica concezione di pacifismo che possono... È la fregatura, insomma, è masochismo, va no, bene. Comunque sì, secondo me è interessante l'operazione che è stata fatta in questi giorni sui media, no? I media hanno sempre comunque bisogno di descrivere da una parte i buoni e da una parte i cattivi e di separare. Devo dire che guardando, e la guardo poco la televisione, a volte anche quando i servizi che venivano dalla valle non erano così pessimi, prendete con molte virgolette, poi la giornalista, la grande giornalista o il grande giornalista in studio comunque riprendeva dicendo: avete visto dal servizio, cosa che non si vede assolutamente, che c'è una distanza, una differenza fra i buoni abitanti della Val di Susa e così via, i cattivi che vengono da altrove. Questa distinzione la usano e la applicano anche distinguendo fra buone le donne e cattivi gli uomini, ma quando questa operazione gli sfugge di mano e non riescono e non sanno, a quel punto diventa le buone e le cattive. Le buone sono le mamme, le nonne, le così via, eh? Le cattive sono queste giovani che di solito sono belle, sono con i capelli fluenti, le mani affusolate e così via, per cui c'è anche una descrizione assolutamente maschilista, assolutamente da patriarcale e da de quarta, quinta serie e così via. Ma sei sicura, Daria? Perché mi sa che le donne incappucciate piacciono solo a te. Non ai giornalisti. C'hai visto te così. No, sì, non piacciono, però hanno bisogno... Sì, l'articolo, quello di Io Donna, dice che era la militante, la arrabbiata è anche bella, perché così forse rientra nella passionaria, la donna incazzata, comunque se è bella forse è più giustificabile della, invece della vecchietta che è brutta, non lo so, c'è anche sempre questa opposizione fra belle e brutte, buone e cattive. Comunque dividere sì, e controllare comunque lo stereotipo del potere, perché la donna incazzata nella società che ci hanno costruito intorno comunque è la donna di potere, manager, che può comandare, quindi c'è questo stereotipo della bellezza della donna al comando. In realtà, come ben sappiamo, si sceglie di indossare un passamontagna per essere tutte uguali e quindi non prevaricare e non di sicuro non imporre alcuna autorità su nessuno. Forse per concludere questa parte di trasmissione e di riflessione, io la concluderei dicendo, appunto, abbiamo nominato tante forme di violenza, c'è una forma di violenza che forse noi preferiamo chiamare differentemente autodifesa, resistenza, ma anche appunto capacità di immaginare, di trasformare la realtà e quindi attacco e rifiuto al sistema e sua reazione. E quindi concluderei questa parte della trasmissione, perché dobbiamo poi collegarci con varie donne da varie realtà differenti dell'Italia, e io vi propongo Sezen Aksu Kalashnikov. E noi accettiamo la tua proposta. Thank you. 24 ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop. Allora, interrompo le cumbia queers che sono partite così un po' alla sprovvista. Abbiamo invece precedentemente ascoltato Sezen Aksu con Kalashnikov. Questa è la trasmissione di approfondimento dall'Aquila alla Val Susa, lo Stato arresta e stupra libere tutte. Sì, adesso entriamo diciamo un po' più approfonditamente a parlare di militarizzazione appunto dei territori, delle città e che cosa significa, che conseguenze ha, che ricadute ha questa militarizzazione in particolare sulle donne. Siamo al telefono con una donna del centro antiviolenza dell'Aquila. Ciao Valentina, ci senti? Ciao, sì, ti sento. Ciao, ti sento un po' piano, però ti sento. Ecco, cercherò di urlare. Ben trovata. Allora ti sento meglio. Senti, allora, vabbè, l'Aquila l'avremo, ovviamente vi avremo contattate lo stesso perché ai noi è un esempio diciamo terribile di controllo del territorio, addirittura insomma proprio forse possiamo dire state in una fase sperimentale, state quasi oltre la militarizzazione semplice, insomma, quindi ti chiediamo di ovviamente aggiornarci un po' sulla situazione e raccontare dal terremoto in poi voi in particolare anche come centro antiviolenza come avete interagito con questa situazione molto difficile. Ovviamente alle cronache negli ultime settimane questo terribile tentato omicidio di fatto, aggressione, violenza contro una giovane donna da parte di un militare o più militari ci pone anche lì tanti interrogativi per quanto, come dicevamo giustamente anche fuori onda, è una violenza di genere anche quella e poi in particolare in un territorio dove di militari ce ne sono molti e quindi è avvenuta da parte appunto di un militare. Tu intanto vuoi dirci qualcosa su questa situazione nello specifico o... Intanto vi ringrazio per esservi collegate con noi. Partiamo un attimo, come dicevi tu, in effetti possiamo dire che all'Aquila e nel nostro territorio, questo è un territorio che oramai da tre anni, è un territorio in cui vige ancora uno stato di emergenza, dove si governa con lo strumento delle ordinanze, del potere, e quindi dove si elaborano e si sperimentano prassi esportabili anche altrove. Insomma, siamo diventati chiaramente un laboratorio sotto questo punto di vista, come dicevi tu. Noi donne del centro antiviolenza, donne cittadine dell'Aquila, viviamo in questo territorio e ci sentiamo donne in resistenza, Perché viviamo, innanzitutto perché anche a livello nazionale ci rendiamo conto che viviamo in un paese che fa la guerra, in un paese che propone la guerra, no? Che sì. Affronta il problema della sicurezza in generale attraverso logiche di militarizzazione, presidiando quindi territori, e nel nostro caso, quindi partendo da una visione, come possiamo dire, globale, arrivando a noi, alla nostra visione più locale, chiaramente possiamo dire che tutto questo è stato facilmente riportato sul nostro territorio, quindi con una militarizzazione che si è poi trasformata in un presidio fisico attraverso la presenza di soldati, di armi, no? Di checkpoint. Sì, sono quindi strumenti di controllo del territorio vero e proprio, affiancati poi a quelli legati, appunto, come dicevo prima, ai decreti, alle ordinanze, eccetera. Quindi è stato questo il territorio dove noi ci siamo mosse, ci siamo sperimentate anche noi, denunciando costantemente e quotidianamente questo, diciamo, modello di non democrazia. In tutto questo chiaramente poi c'è anche una testimonianza, c'è anche la nostra presenza come donne del centro antiviolenza, e possiamo dire che di fatto anche qui possiamo dire di aver vissuto una sorta di doppia emergenza come donne, perché subito dopo il sisma si è verificato un'ulteriore richiesta, un ulteriore bisogno di aiuto da parte delle donne che si sono rivolte al centro, e questo lo abbiamo registrato proprio con i numeri delle telefonate e del bisogno di aiuto di donne. Diciamo, nonostante il vostro centro poi sia nei fatti distrutto, cioè voi avete dovuto anche arrangiare, diciamo, una risposta, sì, questo, a queste richieste. Allora, noi non possiamo dire che avevamo una sede, la situazione del centro antiviolenza, la situazione, diciamo, sede da un punto di vista logistico non è stata, diciamo così, drammatica. Noi avevamo una sede, ospiti all'interno di un consultorio, siamo dovuti andare via perché quel palazzo era inagibile, quindi ci siamo trovate a ricollocarci necessariamente e velocemente comunque in città, in un'altra sede dove siamo tuttora, e quindi spostandoci, ritrovando insomma la possibilità anche materiale di riuscire a lavorare, di mettere in piedi immediatamente il telefono, che era l'unico mezzo di comunicazione per poter intercettare tutte le richieste di aiuto. E quindi voi ne avete ricevute molte, insomma, dopo l'evento, sì, del terremoto? Sì, questo è stato sicuramente un elemento che ci ha fatto molto riflettere, perché il post terremoto ha in un certo senso creato condizioni sicuramente molto più difficili, all'interno delle quali le donne, le madri, le mogli, le compagne si sono ritrovate a dover condividere all'interno di una situazione molto più ristretta, considerando che ci sono stati poi ricongiungimenti familiari, quindi situazioni anche diciamo da un punto di vista materiale e logistico, e che le hanno portate a ritrovarsi all'interno dei contesti strettamente familiari, no? Sì, ricongiungimenti familiari, diciamo, forzati, no? Perché sì, le case erano crollate. È scoppiato il fenomeno, insomma, lì dove già c'era, però non era ancora emerso, no? Era un po', diciamo, soffocato. Sì, certo, infatti. Poi possiamo anche immaginare, ecco, magari se ci aiuti anche a immaginare, sì, la vita quotidiana, insomma, L'Aquila, come dicevi tu, è una città piena di presidi fissi militari. i quali chiedono... Ora negli ultimi tempi, diciamo che da pochi giorni, da forse neanche un mese, 20 giorni, diciamo che si stanno un po' diradando, sono rimaste poche presenze, presenze militari, comunque resta una città completamente blindata, anche se le strade sono aperte e si può circolare, resta una città completamente abbandonata a se stessa, puntellata, dove la ricostruzione chiaramente non riparte, una città dove non è possibile viverci, dove è difficile attraversarla, è difficile anche vederla in queste condizioni. E però restano, se non c'è una militarizzazione fisica, quindi visibile, sicuramente continua ad esserci quella legata ad una condizione di emergenza che, ricordiamoci, vige tuttora. Sì, sì. Senti, ovviamente poi i militari, poi c'è anche molta polizia, molti carabinieri, e appunto è una città che, come dicevi tu, è difficile da attraversare, anche perché, ma qui riporto pure la mia esperienza personale, piovono anche multe, cioè se una persona passa da una zona all'altra, i militari ti chiedono i documenti, in teoria non potrebbero neanche... Fino ai primi 2 anni, insomma, è stato così. Ora diciamo già su questo possiamo respirare un po' di più, ecco. Insomma, dopo 3 anni. L'altra domanda che appunto ti chiediamo è appunto rispetto alla presenza dei militari. Noi sappiamo, perché storicamente è così e perché poi da altre zone di conflitto magari, o comunque dove i militari sono molto presenti, le forze dell'ordine sono molto presenti, che spesso c'è anche un aumento delle violenze legato a questa militarizzazione del territorio. Voi avete avuto questa percezione oppure l'aumento di cui appunto parlavi del subito dopo terremoto è legato poi essenzialmente invece alle situazioni appunto di rientro forzato a casa, di ritorno al nucleo familiare perché per avere una casa bisognava fare di nuovo nucleo familiare, eccetera? Pensi che i militari abbiano, adesso c'è stato un caso eclatante, ma insomma sì, forse... Sì, in effetti questo ci riporta un po', ci riporta al caso di cui si è parlato, che è subito ribaltato sulle cronache, che appunto questo stupro ad una ragazza, ad una ventenne, vicino in una frazione dell'Aquila. Resta la nostra indignazione, la nostra denuncia, la nostra rabbia nei confronti ancora di un caso di violenza di genere su una giovanissima donna, fra l'altro, perché ventenne, chiaramente questa ragazza, che ha rischiato di morire, quindi un atto non solo di violenza nei suoi confronti, ma un atto efferato in cui lei ha rischiato veramente la vita. L'indignazione e la rabbia soprattutto non possiamo non manifestarla, pensando che poi chi ha colpito brutalmente è stato o sono stati, quindi chiaramente qui è tutto da accertare, sono stati militari, quindi uomini che continuano a presidiare i nostri territori, che controllano i nostri territori. Sì, sì, no, infatti. E questa è chiaramente è una situazione che ci pone ancora tante riflessioni, che ci porta anche a sentirci, ad autodeterminarci in più nei confronti delle attività che svolgiamo e della... insomma, ci rende anche più convinte, no? Che il lavoro che stiamo facendo è importante, certo, anche se con mille difficoltà, però insomma è importante resistere, è importante esserci, essere presenti, comunque far sentire, così come abbiamo fatto anche nei confronti di questo episodio, far sentire la nostra vicinanza. Certo. Quindi che esiste un luogo dove le donne vengono accolte, vengono ascoltate dalle altre donne, dove trovano insomma la possibilità di riuscire anche a riprendere un po' la propria vita. Bene. Almeno un minimo di serenità. No, è certo, no, è importantissimo. Anche infatti, se è difficile, in questo momento è difficilissimo. Lo sappiamo. Noi comunque continueremo a seguirvi anche nelle prossime settimane, insomma, dalle nostre trasmissioni, ovviamente. Grazie di questa testimonianza in questo contesto e ci sentiamo presto. Grazie, Andrea. Ciao Valentina. Ciao. E allora mandiamo un piccolo stacco musicale. Abbiamo sentito appunto una compagna del centro donna del centro antiviolenza, scusate, dell'Aquila, e poi proseguiamo con altre telefonate. Parfaite fura, que le mouvement est irréversible. Elles disent que l'oppression engendre la haine. On les entend crier, elles menacent, elles attaquent, elles conspuent. Elles invectivent, elles épuent, elles crachent à la figure, elles les provoquent. Elles nagent, elles bafouent, elles s'en moquent. Elles disent qu'elles ont la force du lion, la haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval et la ténacité du chacal. Allora, Allora, sfumando questa bella canzone delle Tribad Guerrière, noi riprendiamo la trasmissione in diretta. Ricordiamo che oltre a essere in diretta con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, siamo anche collegati e quindi salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout di Torino, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio di Massa, che è una radio web di Napoli, e Transizione di Fase, nonché tutti e tutte quelle che ci ascoltano dal web. La trasmissione è dall'Aquila alla Valsusa, lo Stato arresta e stupra libere tutte, ed è un ragionamento appunto sulla militarizzazione delle città e dei territori, su come questo influisce sulla vita delle donne a livello quotidiano, ma anche come le donne decidono di mettere in piedi le loro lotte e le loro azioni di contrasto e come portano avanti tutto ciò. Sì, abbiamo allora al telefono una compagna, una delle donne di No Dal Molin, movimento contro la base militare appunto di Vicenza. E ci senti? Sì, ciao, ben trovata. E allora, ciao, parlando di militarizzazione, voi non potevate mancare come voce e testimonianza, quindi visto che il tempo a disposizione non è moltissimo, entriamo subito. Insomma, intanto, se vuoi in due parole presentare questo movimento e le donne all'interno di questo movimento No Dal Molin. Sì, beh, intanto buongiorno a tutti, grazie per aver pensato a noi, perché ci fa piacere sempre mantenere un contatto con il resto delle persone che vivono in tutto il paese, e anche grazie perché in questa giornata parlare di militarizzazione per noi ci sembra assolutamente importante. Beh, più che presentare il movimento, che è, come dire, molto difficile, forse molto anche complicato. Già noto a chi ci ascolta, in sì. Effetti, insomma. Ecco, tutte... io faccio parte del gruppo delle donne del presidio No Dal Molin, quindi all'interno del presidio abbiamo mantenuto in tutti questi anni un gruppo di affinità, l'abbiamo chiamato così, che nel frattempo si è anche evoluto, modificato, si è sciolto, ricomposto, ecco, ha avuto le varie trasformazioni che seguono tutti gli andamenti dei gruppi, però abbiamo comunque mantenuto viva l'attenzione, insomma, sull'esserci, sul continuare ad esserci. Noi, beh, io mi chiamo Angela, non so se l'ho detto, mi hanno affidato questo compito difficile di presentare. E, cosa facciamo? Intanto, prima di tutto, la nostra attenzione è a mantenere viva l'informazione sulla militarizzazione, perché ci rendiamo conto che molte informazioni vengono eclissate o vengono esposte in maniera leggera, in modo da non dare importanza. Ma l'informazione è importante perché ci permette di entrare nel merito dei contenuti, perché quando parliamo di militarizzazione normalmente si pensa agli eserciti, e invece contiene una molteplici sfumature e si articola su tante variabili. E questo è importante, ce ne siamo resi conto parlando con le persone, no? Ecco, quindi che cosa in pratica noi facciamo? Intanto stiamo facendo la raccolta firme sul taglio alle spese militari, e per contrastare ancora, nonostante sia stato ridotto, l'acquisto degli F-35, e questo è un primo punto, quindi noi manteniamo vivo l'attenzione da questo punto di vista. Poi in realtà parliamo anche di forze dell'ordine, della sicurezza, delle strutture militari che dovrebbero garantirci un controllo, un aiuto, una presenza per risolvere le situazioni così di disagio, e in realtà invece diventano in tanti momenti dei nemici che, sì, insomma, non sono così garbati e carini come noi, e l'abbiamo visto negli ultimi tempi, soprattutto in Val di Susa, quello che sta succedendo. In terzo luogo vogliamo informare, continuiamo a informare sulla militarizzazione, nel senso più ampio del termine, e cioè pensiamo che un modo di pensare alla vita, all'economia, al territorio, all'uso delle risorse, al lavoro, abbia a che fare più col denaro, più con le spese, più con tutta una serie di come dire, elementi che portano non al bene delle persone, ma che portano a pensare ad uno sfruttamento, e questo generalmente poi è estremamente collegato con lo sfruttare risorse in paesi, per esempio, non solo in Italia ma anche fuori, risorse che vanno a danneggiare la popolazione, mettendola in condizioni di o povertà oppure addirittura dover andarsene dal proprio territorio, ma spesso ci rendiamo conto che sono aziende che poi hanno a che fare con costruzioni di armi o hanno a che fare con un pensiero estremamente di sfruttamento, solo esclusivamente di sfruttamento. Ecco, questo è un po' in termini generali i modi in cui noi ci muoviamo. Senti, e cosa facciamo? Andiamo a parlare con le persone, facciamo gazebo, raccogliamo informazioni. Adesso stiamo prendendo contatto con un'associazione della Friulana che si occupa, appunto, visto che lì c'è stata una base americana per anni che ha funzionato, ci siamo resi conto che lì, per esempio, gli americani stanno cercando delle aree per costruire sedi di poligoni, quindi hanno bisogno di territorio, hanno bisogno di strutture per potersi organizzare secondo i loro obiettivi. E questa è un'attenzione particolare che noi abbiamo, perché avendo qui chiaramente questa base che sta continuando a venire su, è un mostro che ha devastato un'area molto importante, e siamo molto attenti a tutte quelle situazioni che hanno a che fare con la base e con le basi nel mondo. Noi la cosa che ti volevamo chiedere, sì, scusa se ti interrompo, è sulla vita concreta quotidiana delle donne, la presenza della base e il suo ampliamento, come si riflette? Cioè, ci sono stati dei fatti di cronaca legati a stupri da parte di militari e così via. Che tipo di analisi avete notato, se c'è un aumento della violenza contro le donne anche nelle famiglie, per esempio? Ma in questo momento ancora situazioni così gravi non se ne sono verificate, se non situazioni, spesso succede, è successo, insomma, che ci sono rispetto all'alcol, no? Quello che accade, che è venuto fuori sui giornali anche recentemente, che si creano dei grossi tafferugli fuori da discoteche, così, fra militari e altri gruppi, così, perché c'è un consumo di alcolici molto importante. Queste situazioni le donne non sono così coinvolte. Dove sono coinvolte le donne? Perché c'è stato un aumento spropositato di locali con lap dance, eccetera. Quindi in realtà adesso che la presenza dei militari è ancora quella solita, è aumentata non di molto, mentre quest'estate ne arriveranno 3.000, quindi allora sì, vedremo che cosa succederà, e credo che le donne siano coinvolte nel senso dello sfruttamento, quindi c'è un incremento da questo punto di vista. Della prostituzione? Eh sì, da questo punto di vista sicuro c'è uno sfruttamento, ecco, maggiore, no? Sicuramente quest'estate la previsione è che arrivano 3.000 soldati, quindi questo è un po' da vedere. Certo, negli anni scorsi sono accaduti episodi molto, molto gravi, no? Rispetto alla, però ultimamente sono stati anche un po' attenti. A volte le cose non vengono fuori, perché spesso se accadono degli eventi difficili o di così di violenze dove sono coinvolti i militari, spesso e volentieri la loro polizia cerca di eclissare, li porta via immediatamente, risolve al proprio interno le questioni e le informazioni non emergono, quindi prima di saperle... Sì, anche con minacce spesso alle donne di non sporgere denuncia o... Certamente. Sì, di questo abbiamo notizie anche in altri luoghi, infatti, dove i militari sono presenti. Sì, infatti diciamo che in questo silenzio potrebbe anche trionfare uno stato anche di paura, tanto da evitare o luoghi o orari che, in cui potrebbero accadere molestie o violenze, ma in maniera indiretta e soffocata, ovviamente. Assolutamente sì, cioè in piccolo già un pochino accade, personalmente in alcuni locali del centro evito di andarci. Io, vabbè, non sono così giovanissima, così, quindi non ho grandi interessi in questo momento a frequentare locali, però se so che c'è una birreria del centro dove spesso si fermano gruppi di soldati, così, di questi, che poi sono persone, ragazzi molto giovani, quindi anche con quest'aria spavalda, così, insomma, questo io evito di andarci perché non ho proprio piacere di neanche sentire la lingua, insomma, e questa è un po' una reazione un po' di tutti noi siamo molto, cioè ci urta proprio anche solo vederli, perché sentiamo un'invasione, è come se venissero ad abitare nella casa di ognuno di noi, ecco, questo è un po' il sentimento che tutti noi proviamo. Noi appunto, cioè, cogliamo l'occasione per evidenziare poi quello che hai detto tu, e lo riassumo anche in maniera fin troppo semplice, però quello che spesso viene venduto come diciamo qualcosa a favore dei territori, ovvero la costruzione di infrastrutture o di grandi opere, e quindi si parla di favori economici che poi riguardano sicuramente poche persone, che non possono riguardare una popolazione intera, poi tutto questo si riversa invece ai danni e sulle spalle di una popolazione intera. E appunto quello che oggi abbiamo potuto evidenziare, e non ci andava neanche di diciamo porre delle forzature, però nei confronti delle donne la condizione di un territorio militarizzato sicuramente si realizza con una doppia forma di violenza. Assolutamente. È comunque una presenza maschile minacciosa, è una presenza armata, e anche questo non è proprio come immagine, no? Anche proprio come visivamente all'interno delle strade. E a proposito, scusa se ti interrompo, appunto, di presenza e di violenza armata, noi abbiamo ancora un collegamento da fare con una compagna dalla Valsusa. Oggi le donne in Valsusa hanno scelto nuovamente di scendere in piazza, oggi appunto 8 marzo come donne, quindi certo. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo con l'invito comunque a rimanere in contatto, ovviamente, e così continuiamo la nostra trasmissione, se sei d'accordo. Grazie mille a voi. Ciao Angela, a voi. E a presto. grazie. Un saluto da tutte noi. Ciao. Grazie mille, arrivederci, ciao. Grazie. Brother, call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low. You know all of that gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? 'Cause it was crazy hot. I walk past these dudes when they pass me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break the fly. I punched him dead in his eyes, said, who you calling a bitch? U-N-I-T-Y. Days at work, if you an attitude and you were rough, and take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had, and I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the zoo. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you wait and see. Who you calling a bitch? You and I. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you wasn't heard, and nobody ever heard of you. Now you would wanna be hard. E allora lei è Queen Latifah con Unity, ovvero unità, sorellanza, solidarietà fra donne in questo caso. Questa è la trasmissione di approfondimento dall'Aquila, la Valsusa, lo Stato arresta e stupra libere tutte. Tante e tanti gli ascoltatori e le ascoltatrici collegate con noi in diretta da varie radio e dallo streaming da varie città, non le ripeto tutte quante, ma le saluto di nuovo, così come saluto una compagna che è collegata con noi dalla Valsusa e che ci diceva che si è appena conclusa l'iniziativa che stanno organizzando. Ciao. Ciao. Ciao a tutte, buon pomeriggio a tutte le donne in ascolto. Abbiamo appena finito la nostra iniziativa che consisteva nell'andare a portare la nostra mimosa alla sindaca di Susa, che come sapete è favorevole al progetto dell'alta velocità, e quindi abbiamo voluto come donne andare di persona a chiedere a una donna, nella concretezza delle risposte, il perché questa opera sarebbe così fondamentale per lo sviluppo della valle e addirittura di tutta l'Italia. Devo dire che i numeri ci hanno stupito, perché essendo di mattina alle 9:30 nel concentramento, e insomma molte di noi ancora per fortuna lavorano e ci sono difficoltà, invece quasi un centinaio di donne armate di cartelli e bandiere sono andate dalla sindaca, che peraltro abbiamo incontrato per strada, quindi poi ha fatto un pezzo di corteo con noi e siamo salite poi in comune dove ci ha ricevute e è stata incalzata dalle domande che venivano tantissime da tutte le donne. Lo sappiamo bene che le donne spesso stanno zitte, ma appena hanno l'occasione di cose da dire ne hanno tante. E naturalmente la sindaca ci ha risposto col solito politichese, nonostante proprio le domande delle donne erano improntate alla concretezza, a cercare di capire le ragioni reali di questa opera, anche proprio chiedendole che ci convincesse. E naturalmente, come ho detto prima, ha risposto con linguaggio, lo stesso linguaggio con cui parla il governo, cioè la necessità dell'opera, il fatto che l'amministrazione locale non conta, che se queste opere vengono decise dall'alto bisogna partecipare per mitigarne l'impatto. Noi abbiamo spiegato che la riduzione del danno ci interessa in altri settori, ma non in questo, perché in questo quello che bisogna fare è rifiutare il danno, quindi l'opera. Insomma, abbiamo discusso, direi anche in maniera pacata, tutto sommato, delle nostre ragioni, e abbiamo lasciato una bellissima composizione fatta con i candelotti che abbiamo accumulato durante tutto l'anno, li abbiamo dipinti di giallo e quindi abbiamo fatto una mimosa di artigianato locale valsusino ed è stata omaggiata di questo regalo, quindi anche insomma un'iniziativa tranquilla, comunicativa, che speriamo contribuisca nel suo piccolo e con le sue dimensioni a quella opera di, insomma, di pubblicità delle nostre ragioni, di comprensione all'esterno delle nostre ragioni.